Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, anche oggi parleremo molto del neo governo Monti. Infatti dall'intervento alle 18.30 vi sarà la replica di Mario Monti, ma dall'intervento del neo presidente del Consiglio al Senato già sono emersi numerosi temi di carattere programmatico, e quindi cosa vuole fare Monti sull'economia. Però ci sono anche altri aspetti: la tenuta della politica, le dichiarazioni di Berlusconi, poi in parte diciamo corrette, e il Popolo della Libertà, ne ha detto Berlusconi, poi voterà compatto in blocco la fiducia al governo Monti, l'andamento di borsa nel frattempo. Però partiremo anche in apertura con il numero uno di Alitalia, anche perché appunto gli chiederemo, inizia così anche un nostro viaggio tra i rappresentanti delle categorie o dei grandi gruppi, per sapere che cosa si attendono dal governo. La borsa meno 1,09% in questo momento Milano, la peggiore è Parigi meno 1,5%, Francoforte meno 1%, Londra meno 1,25%. Come sentite, Milano è assolutamente in linea con le altre borse europee. Tra pochissimo parleremo anche degli spread. Faccio notare che tra i titoli di nuovo i conti Fondiaria Assai meno 5,60% il titolo, Buzzi Unice meno 5,50%, Finmeccanica terzo giorno di calo pesante. Ormai il titolo è a 3,31€, meno 3,83%, media, 7 per del 3,32€ a 2 euro per azione, A2A il 3,12, ST Microelectronics per del 3%, Popolare di Milano meno 2,90, Prismian meno 2,70, Diasorin meno 2,60 come Campari e Toz. Chiudiamo con Fiat meno 2,40% come Intesa San Paolo, e anche Saipem il 2,20 lo perde Mediolanum, ma anche Mediobanca e Tenaris guadagnano. Ansaldo STS più 1,46, Luxottica più 1,25, Enel più 0,70% come UBI Banca. Parleremo quindi delle misure, quello che si è capito del governo Monti. Gli spread, però, prima di tutto, come sempre, è un appuntamento quotidiano. Dacci oggi il nostro spread quotidiano, ormai così siamo messi. Allora, la Spagna è balzata a livello record, praticamente a 500 punti, è allarme in Spagna perché è in zona di salvataggio, a tre giorni dalle elezioni politiche, un atteggiamento anche molto strano quello del mercato. Hanno detto per settimane, mesi, che la Spagna, avendo una chiara data per le elezioni, riceveva un vantaggio sul suo spread, e infatti lo si vedeva anche nei rapporti con l'Italia. Adesso ha preso a salire 500 punti, dicevamo. Oggi la Spagna ha collocato obbligazioni e le ha collocate, sono 3 miliardi e mezzo di BTP, ormai a un tasso del 7%. Altro tema delicato è la Francia, è tre giorni che ce ne occupiamo. Devo dire che anche in questo caso fummo facili profeti. Ricordare che la Francia doveva stare attenta perché ha un deficit molto alto, più alto anche quello dell'Italia, le banche francesi sono piene di obbligazioni greche e di obbligazioni italiane, hanno dovuto svalutare, hanno anche numerosi titoli tossici ancora in portafoglio. Ebbene, la Francia è da una settimana, strana coincidenza, da quando sostanzialmente Berlusconi si è dimesso, il giornale Il Mondo ha detto, beh, è finito lo scudo Berlusconi, i mercati iniziano a punire anche altri stati. Insomma, la Francia è da una settimana che vede salire gli spread, quindi il rischio paese misurato sulla differenza tra quanto non costi la Francia indebitarsi rispetto alla Germania. Oggi la Francia ha toccato 203 punti, sopra i 200 punti, e ha dovuto collocare obbligazioni, ma BTP a 5 anni al 2,8% contro il 2,3% dello scorso 20 ottobre. Come va l'Italia? Attenzione, l'Italia rischia, sarebbe un bene avere uno spread più basso di quello spagnolo se continua questa dinamica. In questo momento siamo a 493 punti, è calato dopo il discorso di Mario Monti, è sceso sotto i 500 punti, e anche il rendimento dei titoli di Stato è al 6,83%, molto molto alto, molto alto, tuttora lo spread a 490, c'è stato un effetto positivo dopo l'intervento di Mario Monti al Senato di circa 20-30 punti di spread guadagnati. 349-238-6666 per i vostri sms e rapidamente le altre notizie in breve. Allora, sì, sull'effetto Berlusconi. Allora, diciamola tutta in maniera molto chiara. La controstoria è sempre difficile come arte. Noi non sappiamo dove sarebbe lo spread italiano adesso se non fosse cambiato il governo. Sappiamo che da giugno in poi ha continuato a salire ininterrottamente fino al record di mercoledì scorso di 570 punti. Poi è sceso a 490, 470, 480 dopo le dimissioni di Berlusconi, è risalito nei due giorni di consultazioni del presidente incaricato Mario Monti fino a 520, 530, oggi dopo il discorso di Monti è sceso a 490, diciamo che non è più andato al record di mercoledì scorso. Detto questo, probabilmente finché non si capiranno le misure prese dall'Italia effettivamente non si andrà a uno spread accettabile. E detto questo, attenzione che non basta un elemento, non basta una dimissione, occorrono poi le misure concrete, i tagli, il contenimento della spesa e quant'altro. È indubbio comunque che si sia ridotto, stavo guardando adesso gli ultimi aggiornamenti, la differenza tra Spagna e Italia viaggiava intorno ai 70-80 punti in queste settimane, in questi mesi, adesso è di 30 punti, nel doppio senso che è salito lo spread spagnolo ed è sceso un po' quello italiano. Applauso dal Fondo Monetario Internazionale per il governo Monti, si aggiunge a Sarkozy, a Angela Merkel, molto positivo, fa chiarezza. E però oggi è arrivata anche Angela Merkel, oggi è tornata a dire l'Italia è un paese forte, ha buone basi economiche, con Monti abbiamo sfide comuni nell'area euro, e poi il Presidente della Commissione Europea Barroso che ha detto con Monti l'Italia dimostra di essere decisa a superare la crisi, tutti elementi, diciamo, tutti giudizi assolutamente positivi. C'è poi però Fitch, che l'agenzia di rating, che nel ricordare come il governo Monti possa essere una sorpresa positiva, aggiunge anche dell'altro. Eh sì, perché dice Fitch che Monti è una sorpresa positiva, che il governo Monti è credibile, però poi aggiunge probabilmente l'Italia è già scivolata in recessione e il rallentamento dell'attività economica dell'area euro renderà il compito del nuovo governo molto più difficile. Potremmo anche tagliare il voto all'Italia se il paese dovesse perdere accesso ai mercati per finanziarsi. Ho capito, ma che senso ha dirlo? Vediamo se succede e poi tagli il rating. A me queste dichiarazioni così fanno agitare il nostro volatile preferito. Anche per Fitch. Allora, due passaggi, poi vi torniamo alle 18 dell'intervento oggi di Mario Monti al Senato, vi torniamo alle 18, li faremo ascoltare anche in maniera più estesa. 44 minuti di intervento, 17 di applausi bipartisan, cioè PD, PDL, Terzo Polo, modifica della pressione fiscale per renderla favorevole alla crescita, interventi sulla casa, lotta all'evasione, riforma del mercato del lavoro, taglio dei costi alla politica, definito ineludibile. E poi ha detto, attenzione, se falliremo, se non riusciremo a fare queste riforme, saremo tutti sottoposti a condizioni ben più dure. I sacrifici necessari per ridurre il debito e per far ripartire la crescita dovranno essere equi. Maggiore sarà l'equità, più accettabili saranno quei provvedimenti. E più ampia, mi auguro, sarà la maggioranza che in Parlamento riterrà di poterli sostenere. Equità significa chiedersi quale sia l'effetto delle riforme non solo sulle componenti relativamente forti della società, quelle che hanno la forza di associarsi, ma anche sui giovani e sulle donne. Dobbiamo renderci conto che se falliremo, se non troveremo la necessaria unità di intenti, la spontanea evoluzione della crisi finanziaria ci sottoporrà tutti, ma soprattutto le fasce più deboli della popolazione, a condizioni ben più dure. E poi ancora, l'Italia non è credibile senza crescita e l'Italia sa cosa deve fare. Parleremo più avanti delle dichiarazioni del leader del PDL, l'ex primo ministro Berlusconi, che prima ha detto in mattinata la durata del governo Monti dipende da noi, e questo ha gelato un po' gli animi. Poi invece ha detto il PDL voterà compatto la fiducia a Monti, è escluso però un nostro appoggio alla patrimoniale. No manovre che blocchino lo sviluppo, e poi ha detto andremo avanti sulla riforma della magistratura e sulle intercettazioni. Adesso per un attimo poi torniamo a parlare del governo, del piano del governo, però vorrei parlare oggi di compagniere, ma inteso anche come richieste che arriveranno al neo ministro Corrado Passera, perché a Roma si è tenuto il Governing Board di SkyTeam, che è la seconda alleanza al mondo nel trasporto aereo. Sono 15 compagnie che si riuniscono per la prima volta a Roma. Dentro SkyTeam c'è anche Alitalia. In collegamento con noi c'è l'amministratore delegato dell'Italia, Rocco Sabelli. Buonasera. Buonasera a lei, grazie. Dunque, ricordo per chi avesse dimenticato qualche puntata, Alitalia salvata nella primavera del 2008, Air France comunque ha il 25% della società, il lock-up, il patto, l'accordo tra gli azionisti italiani scade nel 2013. Poi verremo agli ultimi conti. Voi l'anno scorso avete chiuso comunque con ricavi in aumento del 17% e le perdite dimezzate, ma veniamo fra un attimo ai conti del terzo trimestre. Vorrei partire invece da SkyTeam, da questo ruolo che hanno le alleanze. Ormai, ma mi corregga se sbaglio, mi sembra che il mondo delle compagnie aeree si sia diviso in tre grandi famiglie: SkyTeam, che siete voi con altre 14 compagnie, cioè Air France, China Airlines, Delta Airlines, KLM, Aeroflot. Poi c'è Star Alliance, che ha 27 compagnie, ci sono Lufthansa, United Airlines, Air China, e poi One World, che è quella che ha dentro la British Airways, Iberia, Qantas, American Airlines e Cathay Pacific. Se le dicessi che ormai le alleanze sono l'unico modo in cui una compagnia aerea riesce a reggere l'internazionalizzazione e forse a sperare, dividendo i costi fissi, di fare qualche ricavo? Dice una cosa corretta e alla quale io personalmente credo molto, penso che sia quello l'indirizzo inevitabile attraverso il quale le compagnie mondiali debbano trovare un posizionamento sostenibile sul mercato. Diciamo sono alleanze, inclusa SkyTeam, che oggi ha visto il suo governing board a Roma per la prima volta per la nuova Alitalia, quindi un'occasione anche importante per noi. Sono alleanze che sono nate e hanno ancora oggi un profilo strettamente commerciale, per poter offrire quindi tutto a tutti, quindi in maniera sostenibile, a clienti un network più globale, più destinazioni, più capacità, servizi unici integrati, assistenza, programmi di loyalty, come fossero una sola compagnia, ma hanno, come lei ha sottolineato, anche l'obiettivo di cogliere economie di scala, quindi efficienza, soprattutto mettendo insieme le reti, quindi le capacità, le flotte, per garantire a un settore che è tradizionalmente e strutturalmente fragile, che non riesce a remunerare il proprio capitale, le economie di scala indispensabili per garantirsi, come dico, la profittabilità. Ecco, all'Italia non a caso è all'interno dell'alleanza che è SkyTeam, che ha al suo interno la joint venture, quindi non solo un accordo commerciale ma una condivisione dei profitti più importante del mondo, la joint venture transatlantica, in cui c'è Air France, KLM, Alitalia e Delta. Quello è il modello verso cui bisogna tendere per velocizzare i processi di integrazione per cogliere le ulteriori sinergie di cui abbiamo bisogno. Posso sintetizzare dicendo che in sostanza il settore delle compagnie del traffico aereo è un settore in cui si guadagna poco o nulla. Lei è d'accordo su questo? Sì, sono i numeri. Gli ultimi 40 anni tutte le compagnie IATA mondiali, il consolidato, hanno fatto lo 0% dell'utile netto sui ricavi, quindi con la possibilità di remunerare il capitale investito pari a zero, nulla o modesta. E esatto, quindi non c'è dubbio che i fatti dicono quello. E poi è molto soggetto anche a oscillazioni fortissime, brusche, elementi internazionali e tensioni internazionali. E lei dice, insomma, l'alleanza è l'unico campo in cui riusciamo a dividerci un po' i costi. Certo che fino adesso le alleanze, lo ricordava anche lei, sono state di carattere soprattutto commerciale. Cioè io posso prendere un biglietto all'Italia, l'Italia mi offre di utilizzare anche la rotta Air France nelle destinazioni in cui lei non va, e accumulo punti sulle mille miglia, diciamolo un po' banale, con tutti i voli. Però restano le compagnie separate. L'obiettivo che voi avete è di andare a una vera e propria joint venture, che è una cosa diversa da un'alleanza commerciale. Mi spiega la differenza in quella che avete realizzato verso gli Stati Uniti, appunto con Air France, KLM e Delta Airlines? Cioè, dov'è la differenza rispetto all'alleanza classica di prima, allo Sky Team di prima? L'alleanza puramente commerciale significa che ciascuna compagnia, mettiamola così, vende biglietti non solo per i propri aerei, ma anche per gli aerei della compagnia alleata, con ciò facendo sostanzialmente al cliente un servizio di maggiore offerta e per la compagnia una sinergia di tipo strettamente commerciale, quasi distributiva, se lei vuole. La joint venture che noi abbiamo ormai da 3 anni realizzato non solo in Europa ma negli Stati Uniti è una cosa molto semplice: si mettono insieme le capacità, quindi le frequenze, le destinazioni, i posti degli aerei a bordo, si definiscono costi e ricavi comuni e con delle regole di riallocazione dei profitti ci si dividono i profitti. Questa è una sinergia che non è esattamente identica a come se le compagnie fossero una, quindi non c'è, diciamo, una condivisione ad equity dei risultati, ma con delle regole molto bilanciate approssimano esattamente questo risultato. Questo elimina una serie di barriere, fa volare la compagnia più efficiente perché conviene a tutti, elimina le ridondanze, amplia l'offerta e permette anche che i servizi progressivamente non siano solo il programma mille miglia, ma che ci sia seamless nel servizio, quindi indifferenza di biglietto, indifferenza di prezzo, percorsi misti, assistenza con un solo customer care e via discorrendo. E quindi assomiglia molto di più, anche se non dividete gli utili, diciamo. Un dato può essere assomiglia molto a una joint venture classica, a una unione classica in cui praticamente un dato utile nei conti di Alitalia di questi 3 anni, il cumulato delle sinergie che abbiamo raccolto da questa JV è di circa 600 milioni di euro, quindi una dimensione rilevante che dice anche che senza questo tipo di approccio, al di là delle opinioni, Alitalia non potrebbe essere sostenibile sul mercato. E adesso arriviamo alla sostenibilità di Alitalia, nelle ultime domande che ho per lei. Tra l'altro SkyTeam, che appunto sono queste 15 compagnie, sono quasi 15.000 voli giornalieri in 173 paesi con 916 destinazioni, un terzo di tutti i voli in Italia sono SkyTeam e la metà di quelli dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. E a questo vorrei arrivare, perché insomma è chiaro che se voi volete esercitare un ruolo importante, si è sempre detto Fiumicino deve diventare l'hub, cioè il grande snodo, il grande aeroporto di smistamento per il Sud Europa e quindi anche per il Medio Oriente. Non è un caso appunto che avete tenuto a Roma per la prima volta il vostro incontro del board di SkyTeam. Tra l'altro Roma è anche candidata alle Olimpiadi del 2020. Mi sembra che la capienza di Fiumicino però sia quasi ai massimi, non vorrei dire una castroneria, cioè, se deve diventare un hub ancora più grosso, forse bisogna fare qualche investimento in più, o no? È sicuramente così. Lo stato dell'arte dice, secondo le nostre previsioni condivise anche con Aeroporti di Roma, è che con l'attuale dimensionamento, con le attuali strutture, le piste, gli hangar, le stazioni, i gate e quant'altro, in capo a poco meno o forse poco più di 2 anni, la sola crescita di Alitalia e dei suoi partner SkyTeam porterebbe a saturazione l'aeroporto, quindi con la necessità di vedere porre un cap agli ingressi e alle partenze da Fiumicino, quindi poco oltre i 40 milioni di passeggeri all'anno, che rappresenterebbe, diciamo, un limite e sicuramente renderebbe impossibile solamente anche ipotizzare, per esempio, un evento come quello delle Olimpiadi. Gli investimenti sono noti, sono definiti, sono anche in qualche maniera progettati, costruita una roadmap, grande confronto con il governo sulle modalità, il contratto di programma, condiviso anche dall'Italia e dagli altri vettori. Devo dire che anche a noi che siamo addetti ai lavori rimane tuttora inspiegabile perché non si sia riusciti a avviare un processo di investimenti che, considerato il tipo di infrastrutture, richiederà 5, 10, 15 anni e che quindi verosimilmente ci farà trovare di fronte al momento del bisogno, di fronte a una nostra deficit. Però mi faccia capire una cosa, l'aeroporto di Roma, la società aeroporto di Roma è d'accordo su questo, perché poi voi siete il cliente, diciamo, principale, l'utilizzatore finale non è bello in questo periodo, però come, ma dico, deve essere in primo luogo d'accordo l'azionista. Guardi, per quanto ne sappiamo noi, e noi ne sappiamo molto, perché dipendiamo dallo sviluppo di Fiumicino, oltre a in qualche maniera indirizzarlo, tutto è abbastanza chiaro, tutto è abbastanza condiviso. Siamo stati negli ultimi un anno e mezzo, due, alle prese con la definizione di una nuova convenzione o del nuovo contratto di programma che, se vuole, non ruota come elemento dirimente attorno al tema delle tariffe, su cui si è trovato anche un ragionevole compromesso tra tutti i soggetti, compresi i passeggeri che poi in qualche maniera pagano, ma sulla forma della convenzione che consenta all'azionista di Aeroporti di Roma di sostenere un piano di investimento che richiede naturalmente un supporto finanziario di lungo termine. Però ecco, se lei dovesse fare un appello, le diamo la possibilità al neo ministro dei trasporti Corrado Passera, vi conoscete anche molto bene, ma insomma, sulla vicenda Fiumicino, che poi non è solo Fiumicino, è lo snodo aeroportuale di un paese intero, è la possibilità dell'Italia di restare non in una posizione di sudditanza o subordinata rispetto a Air France e a KLM, cioè rispetto ai grandi aeroporti del nord, lei che appello farebbe? Fare subito, implementare immediatamente la direttiva europea in materia di sviluppo aeroportuale, che per Fiumicino significa una cosa molto precisa, fare il contratto di programma con due o tre requisiti tipici delle direttive europee: orientamento ai costi, remunerazione del capitale, trasparenza dei conti ed equità di comportamento nei confronti dei clienti. Ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Io penso che una discontinuità come quella che stiamo avendo, a prescindere dalle volontà e dai meriti, rappresenti un'occasione per cui finalmente un elemento di catalisi, di velocizzazione possa essere colto. Ma chiederebbe a Passera anche qualcosa sulla razionalizzazione del sistema aeroportuale italiano, che spesso abbiamo detto? Io penso che quello, più che chiederlo noi, è un tema che è sul tavolo forse da 10-20 anni. Io lo so poco perché sono lì da 3 anni, ma se potessi fare una sintesi, io penso che il vettore di riferimento, la compagnia di insomma, l'Italia, la sua traversata nel deserto sta per compierla, soprattutto dal punto di vista della affidabilità, della regolarità, della normalità. Ecco, ho notato che in questi 3 anni attorno ad Alitalia le condizioni di infrastruttura dell'aeroporto, la disciplina dei comportamenti per esempio delle low cost su scala più europea, la forte penetrazione e aggressione competitiva che c'è da parte degli operatori del Golfo e degli operatori del Far East, ecco, sono rimasti punti assolutamente neanche sfiorati o comunque integralmente da risolvere. Una buona agenda che rappresenta, come dico, anche occasioni, opportunità di sviluppo seri. Subito i mercati finanziari, come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Eleonora, meno 1,43%, lo spread italiano a 495 punti, salita molto la Spagna, 460, e la Francia sopra i 200 punti. Allora, la borsa oggi ha risentito solo in parte delle parole di Mario Monti, aveva tentato a migliorare, comunque un miglioramento c'era stato dopo l'intervento al Senato del neo Presidente del Consiglio. Sì, in verità cioè, è stata molto nervosa non appena ha finito di parlare. Monti, gli indici hanno tentato di recuperare terreno, poi hanno allungato il passo anche perché ci sono stati dati americani migliori delle attese, quindi ci sono stati in verità questi due effetti. E poi però appunto hanno ripreso a scendere, soprattutto dopo l'avvio di Wall Street che è stato debole, e poi anche le altre borse europee hanno continuato a perdere punti, e quindi questo ha incoraggiato gli ordini in vendita. Comunque c'è molto nervosismo, molta volatilità, Piazza Affari così come nel resto d'Europa. Sì, devo dire soprattutto oggi su Francia e Spagna. Andiamo sui titoli. Fondiaria Sai, il peggiore, meno 6,5%. In questo caso Fondiaria Sai continua a pagare lo scotto del taglio del rating da parte dell'agenzia Standard & Poor's, che ieri appunto ha rivisto al ribasso il giudizio sulla compagnia assicurativa puntando l'indice sulla patrimonializzazione, e quindi dopo lo scivolone di ieri anche oggi ha accusato la peggior performance tra le azioni del FTSE MIB. Ancora Buzzi Unice meno 5,90%, devo dire anche Stimaco Electronics per il 3,43, A2A il 3,41, Buzzi Unice. Buzzi Unicem ha fatto un discorso anche complessivo, nel senso che gli analisti, almeno dai report, iniziano a ragionare su un 2012 difficile, forse anche su un 2013 difficile, quindi iniziano a mettere in conto difficoltà del ciclo e difficoltà che pagheranno soprattutto ovviamente le aziende più cicliche, quindi ecco perché Buzzi ha pagato il 5,8% in borsa, ma anche Fiat ad esempio ha perso nonostante i prezzi molto bassi il 2,78%, altre azioni cicliche come ad esempio Prysmian ha perso il 3,37%, la stessa Eni che è a metà tra il ciclico e comunque il petrolifero ha perso l'1%, cioè ciclico sì, nel senso sì, che è petrolifero che... però è molto legato all'andamento del ciclo economico. Allora, se tutti i titoli ciclici, ossia quelli appunto che si muovono sull'espansione o la recessione economica, oggi sono andati male, forse hanno pesato anche un po' le parole di Fitch che ha detto l'Italia secondo me è già in recessione. Comunque Finmeccanica, qui la partita è più delicata perché insomma il titolo è crollato del 20% lunedì, martedì, poi ieri ha perso un altro 3%, oggi ha perso un altro 4%, cioè non c'è neanche una parvenza di rimbalzo tecnico. No, infatti i titoli continuano ad andare giù, sono andati giù per tutta la seduta e evidentemente gli investitori appunto hanno preso male i conti dei primi 9 mesi, risultati al di sotto delle attese e poi anche le indicazioni, il profit warning, ovvero la revisione al ribasso per i target di fine anno, l'annuncio che non verrà distribuito il dividendo, e evidentemente questo è il risultato. Non si è mosso nulla, no, tra l'altro anche con conti nel quarto trimestre peggiori dei primi 9 mesi, ha detto chiaramente Orsi. Ancora andiamo su chi qualcosa invece oggi ha guadagnato. Luxottica più 1,1%, Enel più 0,80%, Ansaldo STS più 0,70%. Luxottica continua a festeggiare l'accordo con Giorgio Armani, inoltre gli investitori continuano a tenere d'occhio tutti quelli che sono i titoli del lusso, perché alla fine le società del lusso sono quelle che vantano conti in crescita, forti del fatto che vendono all'estero, vendono in paesi con il PIL che continua a crescere a passo di carica. La stessa Luxottica è presente negli Stati Uniti, ma Guerra ha più volte detto che ha molte terre da ancora conquistare, come ad esempio l'America Latina, l'Australia dove è già presente ma dove pensa di rafforzarsi, e quindi questo accentra l'attenzione ovviamente su tutto il comparto. Ancora, tra l'altro, vediamo anche titoli di cui non parliamo tantissimo in questi giorni, mi riferisco per esempio ad Atlantia. Su Atlantia si è mossa poco, però ci sono dei ragionamenti anche sul ciclo economico. Esatto, Atlantia è uscito un interessante studio di Credit Suisse che peraltro non ha dato alcun giudizio, alcuna valutazione, che sai che non li prendiamo giudizi, sulla società, però ha fatto delle considerazioni interessanti, ovvero ha messo in conto che a causa di un'economia che sarà in un contesto più difficile, il prossimo anno si potrebbe registrare un calo del traffico superiore a quello che era stato messo in atto, cioè del 2% anziché dell'1%, e anche nel 2013, tra l'altro, secondo gli analisti di Credit Suisse, è possibile che si assista a un deterioramento del traffico dell'1%, mentre fino a qualche mese fa si supponeva che il traffico nel 2013 sarebbe cresciuto. O comunque rimasto stabile. I migliori e i peggiori in assoluto oggi in borsa si chiamano TXT Solution più 16,70%, Media Contact più 9,59%, Alcatel Lucent più 8,22%, Aeroporto di Firenze più 5%, i peggiori sono Prelios meno 9,6%, Cogem meno 9,6%, Edes meno 9,20%, CDC Point meno 8,50%. Luxottica festeggia la licenza Armani, e possiamo tornare anche su un commento su questo, ma le banche oggi tutto sommato hanno avuto una giornata contrastante. Unicredit aveva anche rimbalzato per buona parte della seduta, Intesa San Paolo ha perso il 2,94%, ma soprattutto nel finale. Sì, poi alla fine sono andate giù nel finale, ovviamente anche i bond governativi continuano a preoccupare, le banche hanno i forzieri ricchi di titoli di Stato e il rendimento continua a rimanere su livelli elevati nonostante lo spread, abbiamo visto che proprio sul finale è tornato sotto i 500 punti. Detto questo, semmai l'attenzione va puntata quest'oggi su BPM, le azioni hanno chiuso invariate a 0,30 euro, che è esattamente il valore delle azioni di nuova emissione legata all'aumento di capitale da 800 milioni che si chiuderà proprio domani. Gli scambi sono stati boom, sono passate di mano 116 milioni di azioni, ben superiore alla norma alla media dell'ultimo mese. Comunque è difficile poi calcolare la percentuale sul capitale, nel senso che lo si calcolerebbe sul capitale prima dell'aumento di capitale. Detto questo, domani sarà l'ultimo giorno utile per aderire all'aumento, vedremo come poi sarà, se sarà un'operazione che è andata in porto con successo o meno. Ancora tra i titoli citiamo anche oltre a quelli già citati Prysmian meno 3,40, Prysmian, l'ex Pirelli Cavi, Diasori meno 3,20 come media, 7,3%, Azimut 2,94 punto, Intesa San Paolo 2,80%, Fiat e Saipem, e ancora Todd per il 2,70% e Campari il 2,50%, Exor meno 2,40, Mediobanca meno 2,30, Tenaris meno 2,1, Mediolanum meno 2%. Chi guadagna l'abbiamo detto, non mi resta che tu vuoi fare una canzoncina, Leonora, perché siamo senza base musica, si è bloccata tutta la macchina di Radio 24, non so se vuoi cantare, facciamo uno stacco. No, eviterei. Eviterei, va bene, allora faccio io uno stacco musicale. Com'è che era? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Stacco. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. No, non sono ubriaco, Guido, è che si è bloccato tutto il sistema informatico della radio e non abbiamo la più. La giornata giusta. Però o è un segnale, è già il primo effetto Monti, i tagli colpiscono anche noi, ci toccherà fare i ventriloqui, magari imito anche le voci. Allora, io vorrei farvi ascoltare cosa ha detto Mario Monti oggi al Senato, però chiaramente con i computer bloccati non riusciamo. Intanto ve lo racconto, poi spero e mi auguro che nella seconda ora riusciremo a far ascoltare Mario Monti. Visto che però sono molte dichiarazioni, partirei dalla coda, e cioè da quella che è stata la reazione dei partiti politici, perché si continua a dire governo tecnico, bello il governo tecnico, bellissimi questi ministri, in effetti voglio dire sono tutte persone di altissimo profilo, però ricordiamo spesso che il governo sarà tecnico ma il Parlamento è politico e senza Parlamento il governo non sta in piedi. Allora, il Presidente del Consiglio Berlusconi oggi in mattinata aveva gelato il sangue nelle vene ai mercati e anche alcuni osservatori. Perché? Perché aveva detto, attenzione, Mario Monti non cambierà la legge elettorale. Andiamo avanti sulla riforma della giustizia e sulle intercettazioni. Non faremo passare manovre che blocchino lo sviluppo. la durata, questa è la frase più forte, del governo Monti dipende da noi. Senza di noi Monti non ha futuro. Siamo decisivi e decidiamo noi quanto dura il governo Monti. Poi c'è stata una correzione nel pomeriggio. Berlusconi ha chiarito: il PDL voterà compatto la fiducia a Monti, però ha escluso il nostro appoggio al patrimoniale. Allora, come le valuti? Perché adesso, nel senso, perché potrebbe essere tatticismo, perché non si può chiedere ai partiti di votare e stare zitti. Adesso va bene tutto, però insomma esistono ancora i partiti, c'è ancora un Parlamento democraticamente eletto e le partiti di maggioranza che appoggiano Monti hanno diritto di parlare. Dall'altro però la situazione è così delicata che basta una dichiarazione a bloccare tutto. Allora, ovviamente il discorso di Monti è stato un discorso molto prudente, ma non privo di contenuti, tutt'altro, tant'è vero che appunto ha toccato poi, come hai ricordato tu, temi importanti come l'ICI, la patrimoniale, le pensioni, ha dato delle indicazioni precise su questo. Io credo che innanzitutto c'è da considerare il fatto che il partito, il PDL, voterà, come ha detto lo stesso, nella stessa nota di Berlusconi, in modo compatto la fiducia a questo nuovo governo, e questo, diciamo, partiamo dai dati di fatto. Poi la partita, diciamo, inizierà dopo, quindi inizierà dopo, non intendiamoci lunedì, perché Monti non ha prospettato una manovra che sarà realizzata nei prossimi giorni, ha prospettato un percorso che ci dovrebbe portare fuori dalla crisi, ma nell'arco di alcune settimane come provvedimenti. Tant'è vero che ha detto che, proprio facendo un esplicito riferimento al fatto che verrà valutata l'opportunità di un'ulteriore manovra correttiva nelle prossime settimane. Detto questo, è chiaro che i partiti adesso devono cercare la loro posizione, e per quanto riguarda il PDL è evidente che alcune delle ipotesi che sono state oggi prospettate da Monti, ad esempio la manovra che riguarda la riduzione dell'ICI e una futura tassa patrimoniale, non piace, ma questo non significa, secondo me, che adesso è già iniziata, diciamo, la guerra contro Monti. Significa che, diciamo, innanzitutto i partiti tutti, e non solo il PDL, anche il PD, hanno tutti bisogno di riprendere fiato in questo momento. Sì, e sono anche beh, il PDL è comprensibilmente un po' mortificato, lo è, adesso lo dico con la massima massimo rispetto, perché insomma ritiene che per colpa di un attacco esterno dei mercati ha dovuto mollare il governo. Noi sappiamo che purtroppo così non è, c'è stata una maggioranza che è venuta meno alla Camera pur senza il voto di fiducia, 308 deputati, e da un lato, dall'altro sappiamo anche che c'era un problema oggettivo di credibilità, anche esagerata se volete, ma su Berlusconi, e lo spread questo l'ha dimostrato. Da qui a dire che la situazione si è risolta, però è un altro film. E su questo, Guido, vorrei ancora un tuo ragionamento, e cioè adesso noi sono tutti bravi, buoni e zitti, perché parlare adesso è un suicidio politico. Certo. I ministri sono di altissimo profilo, e su questo mi sembra che ci sia poco da discutere. Adesso però Monti inizierà a fare le misure, poi ne parleremo. L'ICI, la patrimoniale non l'ha citata, vedremo, ha parlato di rimodulazione fiscale e quant'altro. A immaginare, allora, dov'è che tu poni l'asticella tra il legittimo e anche forse doveroso diritto dei partiti che sostengono il governo di dirla loro, non è che si può sempre star zitti, bravo Monti, e fai un comunicato fotocopio unico, e però il rischio di farci sembrare come la Grecia del secondo governo, è quello che poi l'ha portata sul baratro, in cui sostanzialmente la maggioranza ogni volta te la devi cercare in Parlamento. Io credo che nessuno in questo momento o nelle prossime settimane può permettersi degli strappi clamorosi. Tant'è vero, a riprova di quello che dicevamo prima, ho visto anche una dichiarazione, ad esempio, del presidente dei deputati del PDL Gasparri, il quale ha fatto una sostanziale e chiara apertura all'ipotesi di una patrimoniale. Quindi io credo che il dibattito, quello vero sui contenuti, lo vedremo nelle prossime settimane. Ci saranno dei provvedimenti, e ne faccio riferimento a due provvedimenti, uno per quanto riguarda il fisco e appunto l'ipotesi di una patrimoniale, perché Monti ha parlato di meno fisco su imprese e lavoro, ma diciamo da ottenersi attraverso una manovra di aumento della tassazione sui consumi e sulla proprietà, e quindi diciamo con due parole, cioè dando due indicazioni di politica economica, e sul mercato del lavoro, perché sul mercato del lavoro ovviamente, come ha detto anche il neo ministro del welfare Elsa Fornero, non useremo l'accetta, ha detto, però questo non significa che non si entrerà nel vivo di provvedimenti importanti come quelli che riguardano, anche perché la Fornero, insomma, spesso nostra ospite, dovremmo rivela domani, ha sempre chiarito quello che è il suo pensiero da accademica prima ancora che da ministro, e cioè per tutti il contributivo prorata, in modo che la differenza enorme tra chi va in pensione adesso e chi andrà in pensione nei prossimi anni si riduca un po', cioè è una sorta di patto generazionale che tu, secondo l'opinione dell'attuale ministro Fornero, risolvi attraverso il contributivo prorata. Prego. Esatto. E anche sul discorso del mercato del lavoro, oggi Monti, con grande prudenza, ovviamente non c'è nessun riferimento all'articolo famoso, l'articolo 18 sui licenziamenti, eccetera. Ha parlato in genere di provvedimenti che riguarderanno il mercato del lavoro, che si raggiungeranno attraverso un confronto stretto con le parti sociali, e quindi sapendo benissimo che su quel terreno, quello del mercato del lavoro, i problemi più che in casa del PDL sono nel PD, e che quindi ci sono state delle polemiche per quanto riguarda per esempio la posizione del senatore Ichino, a cui Monti invece dichiaratamente sostanzialmente si rifà. Quindi io direi che diciamo nessuno può permettersi in questo momento uno strappo né di qui né di là. Monti ha fatto un discorso prudente, che sarebbe sbagliato dire povero di contenuti, perché i contenuti ci sono e sono molti, ancorché siano addolciti diciamo da toni molto tranquilli. E credo che però la politica nelle prossime settimane dovrà fare i conti innanzitutto con se stessa, perché nessuno dei grandi partiti, a cominciare dal PDL e dal PD, potrà far finta di nulla, e quindi dovrà fare delle scelte chiare. Guido Gentile, ancora in collegamento con noi, andiamo avanti con quelle che sono state le dichiarazioni di Mario Monti. Al di là, appunto, tu hai chiarito molto bene quello che sarà il percorso di maggioranze, ormai è solo maggioranza, l'opposizione è solo la Lega, insomma, della maggioranza bipartisan che appoggia il governo Monti, quindi non si può chiedere, lo dico, non si può chiedere a chi appoggia il governo di non parlare, di stare zitto per mesi. Certo è che dovranno pesare molto molto bene le dichiarazioni. Veniamo agli interventi di Mario Monti. Il primo intervento ha detto in sostanza i punti toccati sono stati tantissimi, però 44 minuti di intervento, 17 applausi bipartisan dell'aula, il professore neo premier ha parlato di modifica della pressione fiscale per renderla favorevole alla crescita, interventi sulla casa, lotta all'evasione fiscale, riforma del mercato del lavoro, valorizzazione del capitale umano e livelli di istruzione. Un primo commento: è ovvio che Monti, anche perché lo guardano tutti i mercati, deve essere ambizioso, ma questo è un programma da un governo di, diciamo, di durata normale, da legislatura, o no? Beh, lui ha detto chiaramente, anche nei giorni scorsi, che il suo orizzonte è il 2013 innanzitutto, cosa che alcune forze politiche, e in particolare il PDL, è una data che insomma digeriscono a fatica e probabilmente magari vorrebbero andare a votare prima, però il suo orizzonte è quello di 18 mesi. In 18 mesi non si può fare tutto quello che lui ha detto, tant'è vero che ha precisato diciamo che il suo programma ci sono delle misure immediate e altre misure che serviranno dopo, ora questo indipendentemente dai governi che eventualmente arriveranno dopo il 2013. Lui non vuole strappi, non vuole strappi né politici né sociali, e ha chiesto anzi appunto un forte coinvolgimento del Parlamento su questi temi, e soprattutto ha chiesto anche, si è molto, come dire, ha fatto tesoro delle indicazioni degli incontri con le parti sociali, con la Confindustria, con i sindacati e con tutte le altre protagonisti della vita economica e sociale che ha avuto modo di incontrare nei giorni scorsi. E sui temi della previdenza, del mercato del lavoro, e ha prospettato appunto non ha usato la parola concertazione, però ha prospettato comunque un percorso condiviso, che porterà a delle scelte. E su questo terreno, anche se, ripeto, con toni molto soft, molto dolci nei toni, ha comunque fatto delle affermazioni molto precise che vanno, diciamo, dall'uso del contante alla politica fiscale in generale. Quindi non è un governo, diciamo, neutro, un governo tecnico che si presenta con un programma, diciamo, per la sola emergenza. È un governo che vuole fare delle cose importanti. Poi vedremo se riuscirà a farle, insomma. Allora, andiamo allora per i singoli punti. Il contributivo pro rata, lo citavo prima perché è un cavallo di battaglia della neo ministro al welfare Elsa Fornero, è praticamente l'estensione a tutti i lavoratori del sistema contributivo pro rata, cioè il calcolo della pensione si fa sulla base dei contributi effettivamente versati e non sulla base delle ultime retribuzioni. Salvi diritti acquisiti, anche per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano già più di 18 anni di anzianità contributiva. In sostanza questo permetterebbe di anticipare gli effetti della riforma Dini e quindi far risparmiare soldi allo Stato. Praticamente i risparmi non sarebbero molto forti all'inizio, ma crescerebbero col tempo. Praticamente si arriverebbe, se anticipato subito, a 8 sono 100 miliardi all'inizio, poi 8 mila miliardi di tagli nel 2015. Per quello che riguarda invece i singoli punti toccati da Mario Monti, partiamo con la patrimoniale. Molti hanno fatto notare che non vi è stato un riferimento esplicito a questa cosa. Oggi Berlusconi, lo ricordavamo, ha detto: attenzione, noi voteremo no a un eventuale patrimoniale. C'è stato un passaggio sulla rimodulazione fiscale. C'è stato un passaggio sulla rimodulazione fiscale che riguarda meno tasse, per capirsi, su lavoro ed imprese, a fronte però di più tasse su consumi e patrimoni, perché lui ha usato la parola proprietà, consumi e proprietà. Quindi volendola in qualche modo tradurre, giriamo intorno ad una patrimoniale. Allora, e questo, quindi dici, non l'ha citato in maniera così esplicita, però quando tu dici voglio rimodulare e alleggerire la tassazione delle persone fisiche e le imprese e spostarla sugli oggetti e i patrimoni, il riferimento è chiaro. Altro elemento, vedo che molti lo chiedono al 349-238-6666, è il riferimento ai tagli e ai costi della politica. Monti ha detto una frase molto forte su questo, è ineludibile, io ve la farei ascoltare se funzionasse i computer, ma non funzionano, lo dico, siamo in blackout come sonori. Monti ha detto: attenzione, è ineludibile una riforma dei costi della politica, e quindi il taglio dei costi della politica. Ora, va bene che è un governo tecnico e che l'appoggio è bipartisan, ma secondo te il tacchino anticipa il Natale? Questo è verissimo, per carità, è verissimo oggi ed è come sempre stato vero nel passato, però è anche vero che non si possono chiedere, che lo chieda un governo tecnico, che lo chieda un governo politico, non si possono chiedere sacrifici agli italiani, perché di questo stiamo parlando, se contemporaneamente non si fa una manovra di riduzione dei costi della politica. Io credo che questo ormai anche le stesse forze politiche l'abbiano capito, perché uno dei motivi per cui siamo arrivati a questo punto è anche perché su questo terreno, come sappiamo, come insegna la nostra lunga storia passata e recente, i politici hanno faticato a prendere atto di questa cosa, e quindi il rating della politica è molto basso per questo. Anche oltre ai tagli alla politica c'è poi l'aspetto del mercato del lavoro. Allora, qui mercato del lavoro e previdenza. Insomma, qui possiamo dire per certo che si andrà verso una riforma delle pensioni? Beh, direi di sì, anche se, ripeto, Monti poi è stato molto attento a calibrare le parole, quindi ha parlato in generale all'inizio di una sostenibilità sostanziale del nostro sistema previdenziale, però ha detto che ci sono delle distorsioni all'interno di questo sistema, dei privilegi che sono al momento inaccettabili, e quindi ha prospettato appunto una manovra su questo terreno. Quindi da questo punto di vista darei per scontato una ovviamente non una svolta lacrime e sangue, cosa, diciamo, concetto che tra l'altro a Monti non piace, ma comunque una serie di provvedimenti che vanno a incidere su questo terreno. Allora, vedo che alcuni ascoltatori uniscono i problemi che abbiamo noi tecnici con il governo, dicendo certo che sarebbe bello se anche la politica avesse dei problemi tecnici e non facesse più dichiarazioni. Sì, ho capito, non è che si può adesso immaginare che i politici non parlino più, ripeto, cerchiamo di essere un po' realistici, non troppo, apprezzo la battuta, ma non troppo, non troppo populisti. Facciamo parlare anche i politici, basta che dicano cose sensate, ci mancherebbe, appoggiano il governo, si devono assumere anche le responsabilità di quello che votano, è giusto che parlino. Diciamo che la cosa da evitare sarebbe, come nel passato, continue dichiarazioni contraddittorie l'una con l'altra. Ancora, e concludiamo, Guido, perché mi rendo conto che ci sono dei passaggi sul mercato del lavoro, abbiamo detto soprattutto riforma delle pensioni, ma non solo, perché da quello che ho capito nel passaggio di Mario Monti forse si va anche un po' a rivedere la normativa sul mercato del lavoro in senso stretto, cioè maggiori tutele a tutti, elevandone magari a qualcuno. Cioè, insomma, delle ammortizzatori sociali è sostanziale superamento, diciamo, di quello che è il dualismo del mercato del lavoro, che, di cui conosciamo i suoi effetti devastanti non da oggi. E quindi su questo ci saranno degli interventi. E poi subito una spending review del fondo della Presidenza del Consiglio. Spending review, chiariamolo per tutti, vuol dire che Mario Monti va a tagliare, forse ci auguriamo che ce la faccia, anche spese non influenti dal punto di vista finanziario, ma sicuramente dal punto di vista simbolico. Beh, voglio dire, adesso non ricordo la dotazione del fondo della Presidenza del Consiglio, ma che comunque è molto ampia, e tra l'altro è un tipo di dotazione che non è nemmeno sotto il controllo della Ragioneria Generale dello Stato, e quindi si muove, diciamo, per conto suo, è un po' una variabile indipendente, e quindi un segnale su questo terreno, per esempio, è un segnale importante proprio dal punto di vista, dice, io per parte mia farò la mia parte direttamente e quindi taglio il fondo di Palazzo Chigi. E poi la lotta all'evasione, a cui si va aggiungere meno aliquote per avere più gettito, qui vorremmo capire dove si vada a parare, ma forse ancora troppo presto. Il prelevo sui beni immobiliari va riesaminato, ha detto Monti esplicitamente, l'esenzione dell'ICI sulla prima casa è un'anomalia italiana, per cui la rintrodurrà, sono 3 miliardi e mezzo, e la pressione fiscale in Italia è elevata, dopo la spending review serve una rimodulazione complessiva e solo nel tempo si potrà avere una graduale riduzione delle tasse. Però insomma, il messaggio è stato chiaro, andiamo a vedere le voci di spesa, dopodiché andremo a tassare di più cose e beni e proprietà, meno il lavoro. L'ho detto, ridurre il fisco sul lavoro, un passaggio cruciale. E poi una tassazione preferenziale per le donne, lo dice il neo premier, che ha messo per la prima volta 3 donne in ministeri chiave di questo paese, welfare, giustizia e interni. Ancora, spostare la contrattazione verso i luoghi di lavoro, questo va in direzione dell'accordo soprattutto con Confindustria, parti sociali, con CGIL, CISL e UIL. Ultima domanda, Guido. Con questo piano, ma mettiamo che Monti ci riesca, che riesca a fare una riforma fiscale per cui si alleggerisce la pressione fiscale sul lavoro, si aumenta un po' di più su chi ha proprietà e sulle beni, cose, sì, sulle cose, che riesca a tagliare i costi della politica, che riesca anche a dare più garanzie sugli ammortizzatori sociali ai giovani e quindi estendendo un po' le garanzie e non avendo i paria come adesso, e che riesca a fare la riforma delle pensioni portando tutti al contributivo pro rata. Ma a questo punto sarebbe quasi uno smacco per il PDL, sicuramente, che in 3 anni con la maggioranza che aveva non ce l'ha fatta, ma forse anche per il PD, no? Ma certamente, cioè, io credo che ovviamente Monti non potrà fare tutto questo nell'arco di un anno e mezzo, però certo potrebbe comunque avviare un po' di tutto questo, a parte alcuni provvedimenti di emergenza che verranno presi, perché ovviamente lui, per esempio, ha parlato anche della delega, dell'attuazione della delega fiscale che era già prevista dal governo Berlusconi, e non parliamo di un orizzonte futuribile, ma parliamo dell'anno prossimo. Quindi, dico, a parte le misure che verranno prese immediatamente, l'orizzonte è ovviamente molto più ampio, però certo prospetta ben più di una di un governo tecnico, ma di un governo, diciamo, dal punto di vista riformista molto molto politico e quindi molto con, certo, con un raggio d'azione importante, e le forze politiche sono un po', diciamo, da questo punto di vista vengono un po' colte in contropiede, tutti, diciamo, a parte la Lega che si è messa in una posizione di opposizione, quindi sì. Però peggio ancora, perché se riuscisse a fare le riforme, poi la Lega dovrebbe giustificare perché non ha appoggiato un governo con alcune riforme. No, ma è interessante, però andiamo con Cameron, una mia fuga in avanti, vediamo cosa riuscirà a fare, cioè cosa gli faranno fare. Grazie intanto a Guido Gentile. Io voglio, finalmente, in finale, siamo ritornati a un livello di normalità. E allora io vi faccio ascoltare proprio un passaggio di Mario Monti che riguarda la rimodulazione fiscale e anche i nuovi contratti sul lavoro. Guido, grazie anche perché sei intervenuto in un momento particolarmente delicato. E allora Mario, un passaggio dell'intervento di oggi all'1:30 del neo Presidente del Consiglio. Nel tempo e via via che si manifesteranno gli effetti della spending review sarà possibile programmare una graduale riduzione della pressione fiscale. Ma anche prima, a parità di gettito, la composizione del prelievo fiscale può essere modificata in modo da renderla più favorevole alla crescita. Coerentemente con il disegno della delega fiscale e della clausola di salvaguardia che l'accompagna, una riduzione del peso delle imposte e dei contributi che gravano sul lavoro e sull'attività produttiva, finanziata da un aumento del prelievo sui consumi e sulla proprietà, sosterrebbe la crescita senza incidere sul bilancio pubblico. Con il consenso delle parti sociali dovranno essere riformate le istituzioni del mercato del lavoro per allontanarci da un mercato duale dove alcuni sono fin troppo tutelati, mentre altri sono totalmente privi di tutele e assicurazioni in caso di disoccupazione. Le riforme in questo campo dovranno avere il duplice scopo di rendere più equo il nostro sistema di tutela del lavoro e di sicurezza sociale e anche di facilitare la crescita della produttività, tenendo conto dell'eterogeneità che contraddistingue in particolare l'economia italiana. In ogni caso, il nuovo ordinamento che andrà disegnato verrà applicato ai nuovi rapporti di lavoro per offrire loro una disciplina veramente universale, mentre non verranno modificati i rapporti di lavoro regolari e stabili in essere. Intendiamo perseguire lo spostamento del baricentro della contrattazione collettiva verso i luoghi di lavoro, come ci viene chiesto dalle autorità europee e come già le parti sociali hanno iniziato a fare. Così appunto Mario Monti, sono tornate anche i nostri stacchi musicali, se no fra un po' mi toccava imitare anche il gufo, c'era chi voleva che facessi il gufo. Chiusa la pagina politica, vorrei darvi un ultimo aggiornamento. La borsa, lo ricordo chi si fosse messo in ascolto, ha perso l'1,43%, oggi pesante Parigi, meno 1,80, ma pesanti Parigi e Madrid soprattutto sugli spread. L'Italia chiude sotto quota 500. Dopo le parole di Mario Monti al Senato abbiamo guadagnato 20-30 punti di spread, che non sono gran cosa, siamo ancora a un livello altissimo. Mario Longo, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Che è successo oggi di nuovo sulla Francia, ma anche sulla Spagna? La Francia sopra 200 punti di spread. Sì, e la Spagna ha toccato, ha superato i 500, poi è scesa. E un dato, secondo me, ancora più significativo è lo spread tra l'Italia e la Spagna. Sì, che si è ridotto. Si è ridotto. Questa mattina i titoli di Stato italiano pagavano 75 punti base più dei titoli spagnoli. Mm-hmm. A un certo punto sono arrivati durante la giornata, dopo pranzo, a pagare soltanto 22 punti base. Quindi la differenza tra Italia e Spagna si è ridotta di quasi 50, di mezzo punto percentuale, poi si è un po' riallargata. Questo è anche legato al discorso di Monti, alla fiducia, alla certo, speranza del mercato degli investitori. Però adesso voglio dire, noi possiamo essere contenti che si avvicini lo spread spagnolo a quello italiano, cioè, però non si sta avvicinando perché noi siamo usciti sotto 400, si sta avvicinando perché la Spagna ci sta raggiungendo e la Francia, adesso non gliela voglio tirare, fa altrettanto. Perché continuano a irrigidirsi gli spread. Perché è sempre evidente che finché non vengono fatte delle riforme a livello europeo, allora. Non c'è. L'Europa sostanzialmente non è in grado di badare a se stessa, in un certo senso. Abbiamo parlato già ieri del Fondo Salva Stati, che non è assolutamente in grado, non ha le risorse di salvare alcuno Stato. Il Fondo Monetario Internazionale non ha le risorse necessarie. Al G20, all'ultimo G20, dovevano aumentare la dotazione del Fondo Monetario Internazionale, non è stato fatto. Tutta una serie di cose non sono state fatte. La Banca Centrale Europea non è in grado di stampare moneta come fanno altre banche centrali di altri paesi del mondo, e quindi l'Europa sostanzialmente è imbalsamata in una serie di regole che si è autoimposta, che la rendono in questo momento incapace di reagire alle problematiche. Quindi adesso stanno un po' aprendo i politici, anche la Merkel in Germania, a riforme dei trattati, a riforme di questo tipo. Speriamo che lo facciano. Questo è il gufo, sai che non abbiamo più niente oggi, non abbiamo più una base, non abbiamo più un audio. Però la speranza ho dovuto fare il gufo io, si sono ripristinate le sigle, io domani mi porterò il tamburello, fischietta e la fisarmonica. Nel frattempo, grazie Moria Longo, grazie a voi. Grazie agli ascoltatori per la pazienza, scusate veramente per gli inconvenienti tecnici che abbiamo avuto in questa nella seconda parte di questa diretta, non dipendono obiettivamente da noi. Focus Economia comunque torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.